Benvenuti, episodio numero 152. Con me stasera ci sono Andrea che sta mangiando e Ciao. Jacopo che non sta mangiando. E Andrea si è ripreso dopo l'ultima puntata in cui, insomma, era in coma. Stasera parliamo di un film non troppo nuovo, nel senso che è uscito già da qualche mese, che è The Batman, di cui è stato appena annunciato il sequel, lo stesso attore sicuramente, e lo stesso regista, si parla dello stesso regista. Film The Batman che è uscito finalmente anche nel web, e quindi ho potuto vederlo tramite questo bellissimo bonus Chili. E vabbè. Batman è il non mi ricordo che numero di film è del nuovo DC Magic Universe. Fatto sta che si discosta, o forse no, dal vecchio, non ho ben capito. Penso sia più un reboot della Warner, prodotto da Warner DC. Il regista è Matt Reeves, che conoscete per bravo, proprio quello. No, ecco, vedi questi. Il pianeta delle scimmie. Esatto, gli ultimi due della trilogia. Che non ho visto. Sono bellissimi. Per fortuna. Male. Sono bellissimi, non capite un cazzo. Qua. Vabbè, italiano fa schifo il nome, però. Il direttore della fotografia è il signor Greg Fraser, che ha nomino perché ha un fetish per la pioggia, apparentemente, però ha vinto anche un Oscar. E ha vinto un Oscar per Dune, quindi insomma, non parliamo di uno stronzetto. Poi vabbè. Direttore della fotografia australiano Greg Fraser, e in questo film fa delle scelte un po' particolari, ma ne parleremo. E voglio citare anche il signor Michele Gioacchino, che è un Michael Gioacchino, che è il diciamo è quello che fa la colonna sonora di questo film, e lo voglio citare perché in questo film a quanto pare ci sono dei gran premi Oscar. Anche lui ha vinto un premio Oscar nel 2010, credo, e ha vinto come miglior colonna sonora per il film niente poco di meno che Up. Non so se conoscete, capito? Up della Pixar. E qui decide di semplicemente fare un remix di Ave Maria, di vabbè, e mi piaceva da citare come cosa. Perché si parla di reboot? Si parla di reboot perché non lo so onestamente, penso perché cambi il protagonista. Boh. Niente. Boh. Sì, silenzio. In realtà non è Ave Maria, cioè è Ave Maria, ma è anche Nirvana. Sì, mixati insieme. Tutte e due, sì. Sì. Come, cioè, dici, naturale, no? Vanno insieme come il caffè e il sale. Dai, stava, era bellissimo. No, è vero, no. Il finale è perfetto. No, fa tutto, cioè, insomma, è tutto in mood, poi magari ne parliamo. Insomma, è un Batman un po' dark, un po' emo, un po' punk, un po' grunge. Un po' grunge. E, no, dicevo, è un reboot, penso perché manca, cioè perché hanno cambiato completamente, no, non completamente, ma hanno cambiato l'attore principale. Fatto sta che questo è un Batman più giovane, è un Batman. Ah no, scusate. Allora, Batman interpretato da Robert Pattinson, che conoscete tutti per il grandissimo film unico nel mondo, il più bello di tutti, The Lighthouse. E poi sì, ha fatto altra roba, ma vabbè, gliela perdoniamo. E c'è Zoe Kravitz, che parente? Sì, credo di sì. Il parente di Lenny Kravitz, credo. Che è, sì, penso di sì. Che è la figlia, no, è Selina Kyle, Catwoman, e, che è praticamente la sosia di Halle Berry come stile di Catwoman. E l'antagonista... Anche lei riconoscete dal film più bello del mondo, cioè Mad Max Fury Road. Che anche lei, esatto, riconoscete dal film più bello del mondo. Perché poi in realtà lei ha fatto un sacco di roba, ma vabbè, tralasciamo questa cosa. E, ricordiamo il miglior Gordon del mondo, anche se in realtà sapete benissimo che secondo me non lo è, però è Jeffrey Wright. E, cioè, no, è lui. Comunque c'è un cast molto figo, perché c'è anche John Turturro che fa il gangsta, che fa il come cazzo si chiama? Carmine Falcone, no? Sì, Carmine Falcone. E Andy Serkis, che purtroppo interpreta Alfred. Perché? Dai! Che imbarazzo! Povero! E l'antagonista è l'enigmista, l'antagonista di questo Batman, interpretato da Paul Dano, che è molto figo, che mi è piaciuto tanto. E un'altra menzione d'onore, vabbè, a parte Colin Farrell irriconoscibile, Andrea non l'ha riconosciuto per quello che gli è piaciuto il film, che interpreta Oz, il pinguino. E, no, l'altra cosa che volevo nominare è il possibile sequel di questo, cioè il possibile antagonista del prossimo film, che sarà un Joker nuovo. E hanno cacciato via tutti i Joker, hanno preso l'attore più inquietante che c'è al momento a disposizione, e di cui abbiamo già parlato, e che anche lui ha fatto ha recitato con come cazzo si chiama? Con Colin Farrell, ecco chi volevo dire, che è Barry Keoghan. Come? È quello del sacrificio del cervo sacro, quello che c'era in The Eternals. Che è tipo, è l'attore più inquietante che potessero prendere, e in effetti potrebbe essere un ottimo Joker, almeno dal mio punto di vista. Vabbè, insomma, tutto sto cast, per dire, hanno pagato un fracco di soldi. E qual era la trama di questo film, il The Vengeance, The Batman? Diciamo che questo è un Batman giovane, come dicevo, e credo che venga fuori nel film che lui è tipo Batman da un paio d'anni, mi pare, e che quindi la polizia già conosce, che quindi conosce già Gordon, ha tralasciato, grazie a Dio, tutta la parte dell'origin story del personaggio. E, più o meno. Beh, vabbè, sì, dai, cioè nel senso... Non hanno fatto la solita cazzata del ragno che lo morde, cioè di lui che cade cioè insomma dei genitori che vengono sparati. È stato morso da un orfano radioattivo, sì, da piccolo. Però... Esatto. Sì, perché, beh, no, perché non lo fanno, ma c'è il pezzo più importante sui genitori che, cioè, è lì, l'origine. Cioè. Sì, sì, ma non c'è lui che diventa Batman, ma lui è già Batman. Non so se mi sono spiegato. Vabbè, comunque. Sì, sì, sì. E insomma, il film comincia la notte di Halloween, in cui il sindaco di Gotham City viene assassinato e lascia un messaggio per Batman, ed è un indovinello dell'enigmista di The Riddle. E niente, Batman, insomma, viene coinvolto, il messaggio è proprio a The Batman, e viene coinvolto in questa indagine, ed è un'indagine che bla bla bla, vabbè, insomma, non so se è tratto da un fumetto o sì. Forse qualche ispirazione, ma non, da che io sappia, non precisamente, cioè. La parte della famiglia, sì, per quello dicevo, forse è importante, cioè è importante, è anche per quello è un reboot, cioè cambia proprio tutta la struttura del... fatto che la madre sia, vabbè, non spoileriamo. Più che altro la storia principale di questo film penso sia più ispirata ad altre storie, tipo lo Zodiac Killer, cioè più roba, cioè non proprio di Batman, però sì, cioè, qualcosina sì, è preso da Batman. Sì, vabbè. E comunque i personaggi sono quelli, nel senso che alla fine È una lettura particolare di Batman, ma tutto il resto della lore rimane, no, non della lore, tutto il resto della caratterizzazione dei personaggi rimane circa tale. E vi è una crescita del personaggio di Batman all'interno del film che indaga su sta storia, bla bla bla bla bla, che ripercorre le sue origini. Non so se si possono fare spoiler. Fatto sta che, insomma, la morale di questa favola, della favola è: avevamo bisogno di un nuovo Batman, e questo lo sto chiedendo a voi. E se vi è piaciuto o no questo taglio a Batman? Allora, diciamo che credo che questo film fosse destinato a Ben Affleck, penso, all'inizio. Forse. E Ben Affleck se n'è andato. Questo film ha una lunghissima storia perché penso sia stato annunciato tipo almeno 5 anni fa. Ma in realtà non era questo, cioè questo progetto all'inizio era partito con Ben Affleck come regista e come Batman ed era un'altra cosa, cioè era un altro progetto secondo me quando è partito. C'è andata Questo secondo bene. me è andato. No, perché? Non lo so. Scusami, non volevo No, no, interrompere. no, no, no. E quindi no, niente, però era molto vecchio come idea. Cioè era da quando hanno fatto il primo, credo la prima Justice League, forse, o anche prima. Forse no, Batman vs Superman, scusate, non Justice League. Quindi sì, si parla del 2016 e l'idea in cui voleva, cioè insomma, avevano cominciato a pensare ad un nuovo Batman. Questo Batman in particolare hanno deciso di prenderlo. Vabbè, intanto più giovane perché Ben Affleck ha i suoi anni e meglio così. E hanno deciso di dargli un taglio grunge, appunto. E viene presentato un Batman in una città in cui piove sempre, non ho capito come mai, è tipo in Danimarca, e un Batman giovane, un Batman che non è completamente formato, un Batman che non ha tutti i suoi gadget, che non ha tutta la sua roba, la Batmobile la costruisce in questo film. Questo aspetto è anche ripreso dal fumetto comunque. Che cosa? Questo aspetto che Batman giovane inesperto del fumetto Batman Earth One. Ah, ok. Diciamo è il Batman che pensa ancora a cioè che si fa ancora delle domande sul tipo il suo ruolo, sono un vendicatore, sono un no, perché ha sbagliato franchise, sono un No, beh, vendica, sono vendetta. sono vendetta, ma non un vendicatore. faccio davvero la differenza e tutte ste caccate qua. Sono un eroe buono, negativo, eccetera, eccetera. Ed è bello. E l'altra cosa che mi è piaciuta è un Batman che per la prima volta, almeno nei film, no, forse no, diciamo nei film recenti, non è un Batman action, ma è anche un Batman che, insomma, almeno apparentemente, è un Batman investigatore, che è un po' una parte di Batman che non c'era con Ben Affleck, che non c'è stata con Nolan e che prova a emergere qui. Detto questo, vabbè, intanto vi dico la mia così poi parlate, io scompaio. A me il film è piaciuto, nonostante siano 3 ore di film. No, Oddio, è Salla, è il incredibile. film da 6 ore più corto della storia, che dici? Io Sono credo di aver visto in buono. 5 parti. E una Madonna. Mi è piaciuto, non mi è piaciuto tanto Catwoman, ma vabbè, questo è. Ma non so perché, non saprei neanche definire il cioè, comunque non ci sta male nel film. Mi è piaciuto il co non mi è piaciuto molto il fatto che durasse così tanto tempo. E cioè, a sto punto fate una cazzo di serie TV. Cioè, comunque è prodotto e distribuito da Warner Bros., ma anche credo distribuito dall'HBO. HBO Max e anche la Warner Brothers pure. Sì. Allora potevano fare una cazzo di serie TV e basta, però vabbè, questo poi è la mia opinione. E prego, signori. Quando è cassato del film? Parecchio. Mi pare parecchio. Batman Box Office. Meritato, va bene, ci sta. Perché infatti questo è il punto, cioè, considerando che la pandemia ha rifatto una roba tipo 760 milioni, che è assurdo, cioè è fuori di testa farlo durante, diciamo, adesso in periodo di Covid, diciamo. Non mi ricordo, ma cioè, mi sembra che Dark Knight avesse fatto più o meno lo stesso, gli stessi soldi, tipo 600 milioni forse. Quindi, cioè, considerando i tempi, forse ci sta che l'hanno fatto uscire al cinema, dai, sal. Che non è una serie TV. No, ma certo, cioè, va benissimo, comunque. E anzi, metterlo al cinema è una buona scelta, nel senso che magari 6 episodi di una mini serie TV, la gente poi cominciava a non vederla più. Al cinema ormai hai pagato il biglietto, voglio dire, non puoi uscire. Non puoi uscire. Ben 2 volte. Cosa? Non lo so. Diciamo che appena finito il film ho pensato, ma vabbè. Però più ci penso, cioè, da quando l'ho finito a vedere, da quando mi sono svegliato il giorno dopo, che mi piace sempre di più. Cioè, mi è rimasto dentro questo film, non so spiegarlo. Cioè, allora, il dialogo è un po' cringe, diciamo. Cioè, il dialogo e alcune delle cose che succedono, senza fare spoiler. Possiamo fare spoiler a un certo ma punto? Ma sì, fai spoiler, ma che mi frega. Allora vai, intanto facciamo uno spoiler. Allora, senza spoiler, diciamo che alcuni degli indizi lasciati da Riddler, dall'enigmista, mi hanno fatto collassare, ma non perché il film voleva farmi collassare. Alcune delle frasi che dice Batman mi hanno pure fatto collassare, perché è troppo, cioè, edgy, teen, sì, adolescente, è molto, grunge. Molto adolescente. Però, diciamo, continuando nel film, alla fine ha anche senso, cioè, anche ripensandoci, più ci ripenso e più ha senso nell'evoluzione che ha il personaggio verso la fine. Vabbè, alcune cose queste le dirò, cioè, riguardo un po' quello che diceva prima Andrea dei genitori, avrei preferito un po' di più. Tra l'altro, nei giochi, non so se sapete, c'è un gioco di Telltale come Walking Dead, come questi qua, e che è su Batman, e che sta roba secondo me la fa meglio, cioè proprio vanno proprio all in, cioè nel senso, sì, fino alla fine proprio, che penso sia come nel fumetto. Qui è un po' più grigio, cioè ci sta, però vabbè, magari prendono, cioè possono esplorarlo più avanti. Sì, sì, nei sì. Prossimi film. Sì, sì, certo, magari lo esplorano. Hanno lanciato le basi, magari. Anche perché c'è tutta un'altra storyline nel fumetto associata a questo che nessuno ha mai esplorato nei film. Tra l'altro neanche nei videogiochi ancora, quello che mi ricordo. E che è un arco molto importante, insomma. E cioè, non lo so, più ci ripenso, più dico, vabbè, a me è piaciuto tantissimo Gordon, Jeffrey Wright, cioè lo amo. A me in realtà è piaciuta anche Catwoman, cioè nel senso mi è dispiaciuta. Anche tipo, cioè, beh, Colin Farrell è irriconoscibile, cioè, è incredibile che sia Colin riuscito a fare una Farrell cosa. è un'altra Cioè, persona. è un'altra persona, ma è anche realistico, cioè nel senso non è che si vede che ha tutto quel trucco, non so come cazzo hanno fatto. Cioè, si riesce a muovere la faccia, non è ferma, non so come dirlo. Comunque, vabbè, guardatelo, cioè, è come fare l'assurdo. Mi è piaciuto un botto Bruce Wayne in questo film, cioè, che è una maschera, cioè, sì, è più a suo agio come Batman che come Bruce Wayne, ed è super, diciamo, imbarazzante vedere Bruce Wayne che cerca di sembrare un essere umano, nel senso che tipo si mette gli occhiali da sole perché non è abituato alla luce, c'ha tutta la pelle bianca, le occhiaie, l'eyeliner tutto sminchiato. Solo perché, perché era l'han preso da Twilight, gli hanno detto. Ah, sì, è davvero un vampiro lui, era una coincidenza. Easy. Infatti The Lighthouse è bianca e nera. Quindi non si vede quanto sia. È vero. E poi in realtà erano colorati, no? Per il fatto della cinepresa sul The Lighthouse. Non avevano cambiato un po' la tonalità? Sì, l'hanno colorati. Comunque, vabbè. Ah, a proposito di questo, a me la cosa che ho apprezzato molto di sto film, che forse a te ha fatto cagare, è che hanno usato lenti sbagliate. Cioè, hanno usato delle lenti anni 70 fatte male. Cioè, proprio... proprio letteralmente, come pratica, come manifattura, tutto, cioè, sono, erano proprio lenti difettose. E sto film c'ha proprio una, un feeling diverso, c'è proprio una se non avevo un film anni 70 di serie B quasi, cioè tipo, non so, come se avessero usato una cinepresa dal set di Star Starchiaccio, non so come scriverlo, cioè. Tipo, hanno dovuto anche simulare queste cineprese fatte male per le scene fatte al computer. Tipo, c'è una scena dove loro stanno riprendendo tipo con una GoPro la Batmobile, e c'è questa telecamera che sembra tipo montata sul lato della macchina. Oddio, non sì. So se vi ricordate, guarda sì. Verso dietro. La scena è completamente fatta al computer, ma è assurda perché la telecamera sembra la stessa, e soprattutto c'è la vibrazione che hanno le GoPro quando le attacchi alle macchine, perché giustamente se le attacchi un po' male si trasferisce un po' la vibrazione della carrozzeria sulla cinepresa. Quella scena mi è rimasta bruciata sulla testa anche per come finisce poi quell'inseguimento, e ce l'ho proprio stampata a fuoco. La colonna sonora mi è piaciuta un sacco, cioè più ci penso, Paul Dano molto bravo, in ogni scena dove ci sta lui, cioè si fermava il film, non lo so, cioè è uno di quei film che più ci penso e più mi è piaciuto, non vedo l'ora di rivedermelo, in grazie di Dio. Prio. Facendo attenzione. Però in due episodi. No, probabilmente almeno. Sì. Almeno, cazzo. Madonna. C'è troppo... un sacco di dettagli pure se lo riguardi, conoscendo quello che sta succedendo. Ci sono tanti dettagli sullo sfondo che la gente ama, cioè qualcuno se ne è accorto ora, perché vabbè, poi mette pausa con HBO Max, però prima al cinema nessuno aveva notato i dettagli. E soprattutto, cioè, mi piace dove il film finisce, perché è un Batman che comincia un po' a rendersi conto che è un coglione, essenzialmente, cioè che ha, cioè non lo so. Potenzialmente può andare in entrambe le direzioni, può andare nella direzione, diciamo, fascista da Frank Miller, o può andare nella direzione più o entrambe, diciamo, non lo so. Beh, no, il finale è, più, è molto, non so come dire, happy ending. Sì, sotto un certo punto di vista sì, però vabbè, senza fare spoiler non lo so. Cioè, lui come, cioè, morale, diciamo. Sì. Sì. È molto aperta la questione. Sì. E, no, riguardo alla fotografia, vabbè, a parte... Non lo so, allora, io capisco che lui volesse fare tutto con la pioggia, poteva evitarlo, però va bene lo stesso. E no, la cosa secondo me è molto bella che ha scelto, lui comunque sa usare gli effetti speciali. Madonna. Ma non li usa, cioè è questo secondo me per cui questo film invecchierà bene probabilmente, che è tutto vero, cioè non a te sembra, ma in realtà ti entro sempre, perché anche in... Vabbè, la maggior parte delle scene, per esempio di macchine, ha usato un po' la tecnica Mad Max, cioè io le faccio davvero. È come, guarda, allora, ascoltatori, gentili ascoltatori, guardatevi i film del Pianeta delle Scimmie tutti e tre, abbiate pazienza, Non ascoltate Star Wars, piuttosto mi tolgo gli occhi. Sono bellissimi perché sono riusciti a fare delle creature, ma soprattutto degli ambienti talmente realistici che nessuno si è chiesto cosa fosse vero, cosa fosse set. E la stessa cosa è riuscito a fare qui. Solo alcune scene dove tu dici, ah, questo è ovviamente fatto al computer, oppure ovviamente qualcuno messo su uno sfondo green screen. Sì, no, ok, alcune volte si vede, però alcune cioè la maggior parte delle volte è tipo, non so come dire, cioè quando esplodono le cose esplodono davvero. Non sarei così sicuro. No, lui ha detto, per esempio, nell'inseguimento quello col pinguino, lì lui ha dato fuoco davvero alla cosa. Sì, ma c'è più CGI di quanto sembri, è questo che mi ha stupito. Ma non in primo piano. Di solito no, è vero. Cioè, di solito quando c'è una persona, c'è davvero una persona in primo piano. È quella la cosa, secondo me, che lo farà invecchiare bene. Cioè, è come il Signore degli Anelli. Cioè, il Signore degli Anelli ha la CGI imbarazzante e si vede adesso, dopo, cos'è, di 15 anni... Però anche se lo sfondo degli orchetti è finto, gli orchetti sono veri. E sì, quindi, tu dici, magari Legolas che ammazza il gigante è imbarazzante. Esatto, ma la scena in cui fa uno zoom sugli Uruk-hai rimane uno zoom sugli Uruk-hai, perché sono persone vere truccate. E lì è uguale la scena in cui lui... va in macchina e la macchina esce il fuoco dal coso e quel fuoco lì è vero. Sì. No, vabbè, ok. Che cosa? No, non sempre, cioè anche lì hanno fatto un po' di giochetti con la CGI. Sì, ma non tipo quando inquadra la fiammetta della Batmobile che esce. Sì, no, stavo dicendo nell'inseguimento, cioè non... Ah, no, beh, certo, ok. Cioè, comunque un set finto. Cos'è, una pista di macchine, mi pare. Però, sì. Ecco, sì. Cioè, il fatto che lui non abbia messo, per esempio, la pioggia finta, ma abbia spruzzato del silicone sulle lenti... Comunque, è una cosa che, insomma, cambia un po' la pioggia. Vabbè, niente, era solo. E poi mi piace molto come ha usato le luci, nel senso che molti set sono bui e questo va bene per Batman e va bene per gli effetti speciali. Ma no, quella scena non ho girata davvero, quella lì nel corridoio. Quella sono in cui si vedono solo... matti, sono dei matti. È pericolosissima quella roba, cioè non so come cazzo hanno fatto, hanno fatto davvero quella scena dove gli sparano nel corridoio e nessuno vedeva un cazzo, cioè era tutto buio. Quanto cazzo è bella quella scena pure, mamma mia. Poi è anche figo, come dicevi prima, che in questo film si vede Batman come investigatore, come detective, e come il film ti comunica questa cosa all'inizio, cioè che lui entra nella stanza e come guarda una cosa, il tizio con la fotocamera, la tizia si gira e fa la foto, cioè... Sì. È una cosa senza dire nulla, cioè... Sarà che sono abituato che ormai nei film di cui parleremo la prossima settimana e anche in altri film, tutto ti dicono. Vabbè, parleremo di Red Notice la prossima settimana. Oh no! Però boh, mi è piaciuto anche quel dettaglio. Andrea? C'è Deathstroke. Sto leggendo, non lo so. Deathstroke. Boh, non lo so. Io non lo so. Cioè, non ho tanto aggiungere. C'è una cosa da aggiungere, forse soltanto quello che avete detto. E niente, posso solo riconfermare tutto quello che avete detto. Che sono d'accordissimo. Che a parte, vabbè, le tre ore, perché sono tre ore effettivamente, però il film è lento, volutamente lento, ma non è una critica, nel senso, mi è piaciuta la cosa, a parte la prima mezz'ora per ambientarmi, diciamo, ho notato che quindi mi ha dato un po' fastidio, poi è comunque è costante, quindi non te ne accorgi, ti ambienti, che è anche molto ritmato con la musica, appunto, cioè l'Ave Maria, cioè tu ci pensi, poi le scene sono proprio lente, proprio scorre lentamente il film. E boh, mi è piaciuta un po' anche quella come cosa. Molti sono pallati invece, però vabbè. Ah, beh, è molto nel mood del film, non è che sì. C'è poco da fare. È un film che ha pazienza. Sì. Molta pazienza con le inquadrature. Sì, no, per dire che cioè, comunque con la colonna sonora ci stava di brutto. Non lo so. Poldano, tanta roba, porca puttana, non gli avrei dato un centesimo. Ah, io non ho dato un centesimo a Pattinson, invece è tanta roba pure lui. Vabbè, a Pattinson l'avete visto, bravo, dai, su, The Lighthouse, rega. No, come Batman, dico, cioè, magari all'inizio, capito, dici, ma ok, vedremo. Beh, hanno scelto un Batman giovane e secondo me è un'ottima scelta, perché lui da emo ci sta bene. Sì. Possiamo spoilerare adesso? Vai, spoiler a tutto. Tanto non metti il segnale quello lì. Il segnale, sì. No, non me lo ricorderò mai, vabbè. Ratalada? È Ratalada. Ratalada, volevo suicidarmi. Cioè... ma anche quella, la battuta che fa con il dito, porca puttana. Ma scusi, io non ho capito questa cosa del Ratalada. Magari è perché mi ero già addormentato. Forse. Ma porca puttana, non è Batman Ratalada? No. Beh, la Ratalada poteva la, essere esatto. Il Ratalada. Non ho capito. Indicava un altro tipo di uccello. Sì, ho capito, però, cioè, nel senso... Di volatile, anzi. Qual è il... Non esiste il cazzo di rasoio di Occam in sti indovinelli di merda? Cioè, allora vale tutto. Oh, allora... La cosa che mi ha fatto incazzare è proprio il fatto che loro avessero completamente ignorato questa cosa. Cioè, capito? Tu dici El Ratalada, lo cerchi e la prima cosa che ti dice Google, forse intendevi la Ratalada. E quindi dico, ma è possibile che... E quindi cioè, mi ha fatto un po' incazzare questa cosa. Cioè, poi anche alcune battutine, ma anche proprio... Non lo so, cioè... Alcuni dialoghi tra lui e Gordon, la scena lì dentro quando gli dà il pugno, non lo so, cioè alcune cose un po' non mi hanno convinto come dialoghi, come le dinamiche. Ma appunto... dialoghi, soprattutto di lui come persona normale, sono tutti imbarazzanti. Sì, sì. A me non è dispiaciuto Alfred, ma forse il problema è questo, cioè il problema è che ancora... Cioè, mi è piaciuto dopo un po' perché ho capito che alla fine l'idea era questa, cioè l'idea è che lui fosse ancora troppo fissato sulla sua idea di appunto di vendetta, di essere solamente un simbolo di paura per tutti, cioè anche per la gente che cerca di salvare. E che proprio non concede, cioè ha proprio questa reazione da teenager con Alfred. Ha proprio questa parlata teenager, super melodrammatica. E quindi, cioè, dopo, alla fine, l'ho contestualizzata come ah, ok, semplicemente deve crescere e probabilmente... Sì, è un ragazzino. Quindi... Sì, e parte della sua crescita è capire che quello che sta facendo non lo deve a nessuno. Cioè, non è una cosa che fa per la memoria del padre, perché anche il padre non era una persona perfetta. E questo ci sta. La cosa che non mi è più tanto piaciuta è che con Thomas Wayne l'hanno lasciata un po' aperta, no? Cioè, invece di dire sì, era un corrotto, hanno detto no, ha fatto anche cose buone. Cioè, nel senso, sì. ha fatto anche la bonifica. Mi è piaciuto con la madre il discorso, io quello non lo sapevo, in realtà, il dettaglio della madre che era nella sala. Ma io speravo che lui urlasse Martha a un certo punto. Marta! No, io neanche conoscevo appunto questo fumetto, che vabbè non è tanto vecchio, comunque è abbastanza recente, Batman Earth One, che appunto è dove si è ispirato tutto questo film, perché la base l'hanno presa lì. della famiglia, cioè delle due famiglie che governavano, cioè che hanno creato Gotham praticamente. E vabbè, però vabbè, lo esploreranno di più nel prossimo film, sicuramente, Sì, dai. e anche, cioè, magari esploreranno anche il fatto che lui magari ora è più aperto a un concetto più di aiuto da Alfred, da Robin, questi personaggi qui, che sono comunque importanti per il personaggio di Batman alla fine, per la crescita di Batman. La cosa di Riddler, un'altra cosa che non mi è piaciuta, che vabbè, mi è piaciuto che ha vinto alla fine, tra virgolette, no? In un certo senso, ha fatto tutto quello che si era prefissato. L'unica cosa che mi ha fatto un po' ridere è che non ha capito che Bruce Wayne è Batman. Perché, cioè, Allerta non spoiler. lo so. Eh? Allerta spoiler, no, avevamo già No, detto certo, questo. sì. E la scena con Joker, sinceramente, non ne vedo troppo il motivo. Pure, boh. Mi Vabbè, la sembra un scena po' un con Joker teaser. è per aprire a un sequel, ci sta. Sì, no, dico, per questo film non riesco troppo No, a vabbè. giustificarmi, diciamo. Ma così si tenga un buon anche l'attore, ci può stare. Voi l'avete visto in lingua o in italiano? In inglese. Originale? In inglese, anzi. Al cinema in inglese sono stato un sacco curato con lo spettacolo. Io l'ho visto al cinema italiano e boh, tanta roba. Non mi è dispiaciuto per niente perché cioè, c'è Crescentini e Mete che io adoro personalmente, quindi facevano appunto Bruce Wayne e l'Enigmista. Sono un sacco bravi. Poi c'era anche Boccanera, vabbè, Pinguino. Ah, cioè, come doppiaggio o anche come, cioè, perché alcune cose sono proprio difficili da tradurre, sono tipo dei giochi di parole. Eh Ma lì come sì, quella roba è stata un po' brutta, soprattutto il primo indovinello, se non ricordo male, quello che dice, cosa fa, non me lo ricordo, però la risposta giace continuamente, però suonava, cioè era bruttissimo in italiano effettivamente quella roba, però vabbè. comunque è molto figo che Batman li risolva tutti, ma cazzo, cioè lo spettatore non li legge neanche, cioè non capisce neanche che cazzo dice l'indovinello, perché lui li legge e Batman dà la risposta. Poi Volevi fare il quizzettone, volevi fare il giochino. capito, però un minimo di suspense. Poi ho capito che Batman è quello figo che risolve immediatamente, però cioè diventa come una frase normale, no? Vabbè, sono Ah, era sì, io. ok. Cosa fa un bugiardo quando muore una roba del genere? Continua, cioè perché lies in inglese ha senso, in italiano no. Non so, insomma, ecco, cioè alcune cose mi hanno un po' deluso, ma Ma no, io ho una domanda. Come si colloca questo qua con gli altri Bat, con gli altri della DC? non si colloca. Ah, è a parte. Cioè, da quello che ho capito, vogliono fare un reboot generale di tutto. Di Cioè, nuovo. vogliono. Eh? Di nuovo. Di nuovo, sì. Vabbè, Oh no. ma cioè, hanno avuto una sfiga allucinante con gli attori. Cioè, ci hanno avuto uno alcolizzato che non vuole più fare Batman, l'altro che non vuole fare più Superman, un'altra che ha abusato Johnny Depp. Uno che fa il cazzo staffa, lo arrestano Tra l'altro, tre volte al giorno. escono dei video incredibili su Cioè, internet no, del divorzio. l'unico che c'è rimasto è Jason Momoa, che mo si fa il suo secondo Aquaman e poi scappa, penso, va in Svizzera pur di evitare la maledizione di sì. Cioè, Deve fare Minecraft adesso, no? esatto, si farà il blocco di diamante, capito? No, vabbè, ci sta, vogliono dopo Flash, dopo il film di Flash vogliono fare un reboot, quindi non so se questo diventerà un nuovo universo, ma spero di no. Sta bella solo Batman, dai. Sì. Ah, un'altra roba che, di cui non abbiamo parlato, ma giusto due parole al volo, c'è Turturro ed è figo. Niente, vero. Finito. Cazzo, mi ho dimenticato di... Quanto cazzo è bella quella scena quando lui semplicemente gli chiede del padre e lui risponde. Quanto cazzo è un figo Turturro. Cioè... Poi risponde in una maniera talmente naturale e cioè è come se fosse la cosa più normale del mondo e ti mette un botto d'ansia, cioè non gliene frega un cazzo. No, tra l'altro lui è proprio bravo anche perché i personaggi che ha interpretato sono molto diversi tra loro. Cioè la serie di cui parlavamo la settimana scorsa l'ha girata vabbè, magari in tempi diversi, però è un personaggio totalmente diverso. Non sembra neanche lui, sì. Non sembra neanche la stessa persona. Stesso attore. No, tanta roba Turturro, sì. Va bene, basta. L'avete provato il link ratalada.com voi dopo il film? Ah, no. Ah, no. Adesso va di moda quella cosa e funziona? Provate a farlo adesso, cioè prima sì, c'erano un po' di indovinelli così, adesso se lo provi a aprire, guarda che succede. No, dai. Non c'è. Dice che il Dipartimento di Polizia di Gotham ha chiuso il sito. Ma sai che va di moda adesso anche su The Moon Knight? E, non so se la state guardando, vabbè, la serie su Disney Plus. C'è un QR code a un certo punto e se voi mettete in pausa e lo scannerizzate vi porta a una pagina di, vabbè, di pubblicità tra virgolette della Marvel. Ok. Si parla molto di moda sto qua, questi dettagli. È un dettaglio completamente inutile, ma è figo. Vuol dire che loro sono presi a briga di comprare un dominio. Wow, complimenti. No. Wow. Va bene, e volevate aggiungere altro? Perché per me possiamo anche chiudere qui. Yep. E grazie per averci seguito. Andate a vedere Batman, che adesso è disponibile nei siti di Sol. Cioè, c'è un po' ovunque da comprare o noleggiare. Ah, aspetta, i dettagli non ho detto. Che dettagli? Se ci fai caso, c'è una scena dove si vede l'enigmista sullo sfondo, tipo che guarda dalla finestra. Se tipo c'è una scena dove c'è Batman che tipo va in quel. Cioè, sei presente quando gli spara a John Turturro? Sì. Si vede che c'è lui nella finestra, cioè si vede dalla finestra. Sì. Che è quello che dicevo prima. Sì. Ah, sì. Capito la scena che intendo. Sì. Un altro dettaglio, no, è figo che lui fa il parallelo fra Batman e l'enigmista prima che lo faccia l'enigmista, perché tipo Batman a un certo punto si mette a spiare Catwoman come l'enigmista spia. Ah, il guardone, giusto. Sì, lo stereotipo del guardone. Da tipo guardone. È che appunto sottolinea un po' il fatto che Batman non è proprio uno stinco di santo, insomma. Vabbè, è una bella donna e la spia col binocolo dal palazzo di Frodo. Naturale, sono ragazzi. No, sono ragazzi. Sono ragazzi. Sì, vabbè. Scusa, no, questo era dettagli di guardoni, diciamo. Molto guardone questo film. E va bene. Dicevo... E no, grazie per averci seguito, andate a vedere Batman, è consigliato, è un po' lungo, noleggiatelo e guardatelo in puntate, come ho fatto io. E noi ci vediamo settimana prossima con un film brutto. Alla settimana prossima, ciao ciao! Ciao.